140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Buongiorno da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi questa settimana con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter, seguendo il mio account @MartaCagnola o con l'hashtag #cancelletto140caratteri. Come ogni settimana, mano a mano, ci avete anche mandato in diretta via Twitter le vostre domande. Ecco gli spettacoli di questa settimana dalla viva voce dei protagonisti. Cinema Anteo, Milano. Un film atteso e controverso per raccontare una notte che è ancora un tabù. Diaz, di Daniele Vicari. Tra i protagonisti, Elio Germano. È un film che insomma ho visto nella sua genesi, perché conoscendo Daniele, insomma, da anni che... Ma penso un paio d'anni dopo Daniele voleva già fare un film su Genova, che non era questo. E a un certo punto, mi ricordo, ne voleva fare 7 diversi. E quindi e fortunatamente poi è riuscito, grazie a Domenico Procacci, a realizzare questo film sulla Diaz. E quindi l'ho seguito da... insomma è stato veramente un parto difficilissimo, e possibile proprio grazie al fatto di gente che ha creduto in questo progetto, al di là del meccanismo cinema, al di là degli interessi personali. Anche gli attori, insomma, siamo tutti venuti senza pensare neanche a parlare né di stipendio né di pose, cioè di quanti giorni di lavoro erano per uno o di chi aveva più battute, ecco, un senso veramente di mettersi a disposizione di una cosa che è una sensazione contraria a quella che di solito si respira un po' su qualsiasi posto di lavoro, no? Specialmente sul nostro, spesso ci sono tutte occasioni per mettersi in mostra, in questo caso è il contrario, è mettersi al servizio, che è una cosa sicuramente già umanamente più piacevole, no? Che dà più soddisfazione. E quindi il film è stato sicuramente questo, innanzitutto, ecco, per quanto mi riguarda questa è stata la cosa più importante, più bella, che deriva da ciò che raccontavamo, appunto, da un senso anche di necessità che ha toccato tutti noi di che un film del genere fosse fatto. Arrivano i guai. Vettore di grasso. Dobbiamo sgomberare un manufatto occupato da pericolosi anarco-insurrezionalisti, o black bloc, che dir si voglia. Con quali uomini? Metà stanno a letto e l'altra metà non lo so dove stanno. Con quelli che riesci a trovare. Più sono, meglio. Ma ci abbiamo le foto di questi anarco... questi terroristi, insomma. Come li riconosciamo? Che foto cerchi, Scarù? Alle 22.45 tutti sotto la questura. Bene? Anzi, 22.44. Già solo dire un film su Diaz ha creato tutte le polemiche del mondo. C'era molta paura e molta diffidenza. Voi siete riusciti a lavorare con serenità, pensando solo al film, oppure tutto quello che c'era attorno in un qualche modo vi ha toccato? Ma sai, la scelta di Daniele è stata quella di essere sempre fedele agli atti processuali, per cui questa è la scelta che abbiamo quindi seguito anche noi, e quando sei così è inutile cercare, cioè, non sei attaccabile da nessuna parte, soprattutto perché poi la scelta che abbiamo subito tutti condiviso di non fare un film partigiano, di fare un film... che si raccontasse da solo, insomma, con questa pretesa ti mette subito al riparo di qualsiasi situazione, no? Cioè, se una cosa è stata raccontata negli atti dei processi e testimoniata, la mettiamo in scena, altrimenti no. E non c'è stata nessuna necessità di inserire la fantapolitica oppure, diciamo, ipotesi varie, no? Perché è tutto talmente, cioè, si racconta tutto da solo, anche omettendo delle cose. Cioè, anche se cose poi non sono, per questo tipo di operazione, anche se cose poi non sono venute alla luce nei processi, o anche se sono state decise di non mettere cose venute alla luce, magari più aberranti ancora di quelle che vediamo, tutto ciò non inficia appunto il senso del film, che è una restituzione in termini più oggettivi possibili di un momento di follia di cui si fa fatica a individuare dei responsabili, perché forse i responsabili veri sono sempre stati messi a parte delle indagini. Come on, help me, the police is coming. Che altro, hombre? Yeah, they're coming, they're out. What are you doing? No, yeah, para ya. Help me. No, no tiene ningún sentido que hagas... What are you doing? Listen to me. Let's not do anything stupid. We have nothing to hide. What are you doing? Elio, ci sono i manifestanti in questo film più o meno violenti, c'è la polizia con tutte le sue anime, il tuo ruolo invece è un po' diverso, è un altro tassello nella vicenda. Sì, è appunto, il film racconta tantissime storie proprio perché banalmente ti fa capire cioè quali erano le ore precedenti di queste persone che si sono trovate massacrate là dentro, no? Anche per raccontare una volta per tutte, laddove ce ne fosse ancora bisogno, che non era quello un covo di anarco-insurrezionalisti o black bloc, che era anzi uno dei posti definiti come posti, uno dei posti più sicuri, per cui dove hanno dormito appunto il personaggio che interpreto io, che è stato consigliato perché dicevano che appunto ecco era il posto più sicuro dove andare a dormire, ma anche altri che non avevano trovato, che sono personaggi che si raccontano nel film, che non avevano trovato posto in albergo o che si sono fermati nella notte soltanto per così per caso. Quindi ecco, noi contribuiamo con questi personaggi che mettiamo in scena a raccontare anche la casualità, no? Cioè il fatto che persone di tantissimi mondi diversi e disparati, che non avevano assolutamente niente a che fare con quello che la polizia si aspettava di trovare là dentro, erano, no? Cioè quindi noi abbiamo, cioè il compito di questi personaggi, la funzione diciamo nella narrazione è stata questa, che poi sono personaggi realmente esistiti, quindi non è che in questo caso quello che racconto io è un personaggio che sicuramente non schierato politicamente, che decide di andare a Genova per fare il suo lavoro, cioè per raccontare quello che aveva già raccontato a Porto Alegre, no? Cioè questi movimenti che si opponevano alla globalizzazione per cercare di tracciare delle soluzioni. E quindi con questa anche innocenza e con questa necessità anche lavorativa si trova poi a Genova e viene travolto si trova nella Diaz e viene travolto appunto da questi poliziotti imbufaliti. Faccia passare il giornalista. Buonasera, dottor Sartieri, cosa è successo? Si potrebbe sapere il perché del blitz? Allora, c'è stata un'accanita resistenza nella scuola che veniva usata come una specie di ospedale. Che cosa vuol dire che era un ospedale? C'erano molti manifestanti con ferite pregresse. Abbiamo trovato armi, oggetti contundenti. Possiamo vedere le armi? E sicuramente sono state trovate tutte le divise del blocco nevo. Ma quanti feriti ci sono? Divise intere, intendo camicie, maglie, pantaloni, passamontagna. But why did you do this raid adesso che G8 è finito? What about my friend? Per tanto tempo il cinema italiano non ha aperto pagine storiche, il cinema italiano si dedicava spesso e volentieri ad altro. Invece ultimamente i cineasti italiani hanno cominciato a prendere coscienza della storia più o meno recente, ma insomma pagine spesso delicate. Tu cosa ne pensi? Beh, ma è fondamentale. Cioè, guarda, io mi ricordo una battuta di Troisi, che non so, in un programma mi sa da Gianni Minà, diceva che invidiava gli americani perché c'è troppo facile fare il cinema. Gli americani fanno le guerre apposta per farci poi i film sopra, no? E così fa, sono capaci tutti, dici. E beh, non penso che noi pure siamo da meno, eh. Cioè penso che di trame per farci film noi in Italia ne proprio basta ogni giorno aprire il giornale, dietro un qualsiasi fatto di cronaca, dietro un qualsiasi elemento, cioè ci sono raccontato proprio la nostra nazione con tutte le complessità e le follie che ci appartengono. Quindi figuratevi questi fatti storici così, così grandi e ancora così misteriosi. Siamo talmente pieni di cose che potremmo campare di questo. Il problema è che non è che non spetta al cinema, cioè bisognerebbe che si istituissero dei processi, che si, insomma, seriamente si volesse fare luce su quello che accade. Il cinema, nella migliore dei casi, dà un'interpretazione oppure aggiunge una problematicità per aumentare la discussione, che è sempre una cosa molto importante, però ecco, sicuramente non è sufficiente. Speriamo che possa quantomeno nella gente così riaccendere quantomeno una volontà, una legittima richiesta di verità, non solo per questo episodio ma per tutti quelli che il cinema racconta e può raccontare. 140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Ritorniamo insieme con gli incontri, gli eventi, i protagonisti di una settimana di spettacoli. Li abbiamo seguiti tutti in tempo reale via Twitter, giorno per giorno, tra conferenze e presentazioni stampa. Teatro e musica nella seconda parte del nostro 140 caratteri. Teatro Litta, Milano. Un album dopo anni, ma ancora e sempre teatro. Esce col CD Dalla parte del torto, ma Giulio Casale cita Céline nel suo spettacolo La febbre. Quando frequenti, come dire, i sobborghi o i bassi fondi della città, sei proprio nel viaggio al termine della notte, sì. È uno spettacolo che tu hai costruito documentandoti in maniera molto precisa. Su cosa e con chi? Innanzitutto con l'assessorato alle politiche sociali di Milano, che mi ha messo poi, non solo mi ha fornito i dati della situazione, diciamo così, reale, sociologica, antropologica della città di Milano, ma che poi mi ha permesso di incontrare gli operatori sociali, quindi una quantità di associazioni, di fondazioni e anche di volontari, di volontariato, che tutti i giorni si occupano del cosiddetto disagio sociale milanese a tutti i livelli, quindi dal senza fissa dimora all'immigrato, a chi ha perso il lavoro, alle case popolari, al problema della violenza sulle donne, come della violenza sui bambini, quindi del problema dell'affido familiare o no, insomma una quantità di esperienze che mi hanno fornito materiale, devo dire, molto molto esondante, molto abbondante. E tutto questo come diventa teatro? Questa è una bella domanda, è una sfida ovviamente, cioè cercare di diventare quello che racconti e poi però anche di riuscire a staccarsene per diventare il bravo narratore che ti racconta semplicemente la situazione. È una fusione che abbiamo cercato non solo tra le canzoni, che pure fanno grande parte dello spettacolo, canzoni scritte da me come i testi, ma non solo fondere queste due forme, quindi la prosa e la canzone, ma anche fondere il teatro e il metateatro o il teatro di parola con il teatro invece proprio classico, quindi con il personaggio che entra in scena. Cantami la tua canzone e non farmi sconti che non è stagione. Appiccicami a un muro fuori e dopo spogliami di indecisione. Cantami la tua canzone e non sa cosa è Pasqua ma è resurrezione. Buttami nel vetro plastica e riciclami senza dolore. Teatro è una delle tue maniere di esprimerti e recentemente sei anche tornato a pubblicare un CD, cosa che non facevi da tempo. Perché la necessità di esprimerti in tanti modi e perché anche tornare alla discografia poi proprio adesso? Certamente non per denaro, ecco, non è quello che mi muove, visto che non si vende più un disco e non ci sono più negozi di dischi, tra l'altro, ma quelli fisici intendo, quelli reali, ecco. Ma il teatro è per me casa, nel senso che è un luogo che su di me ha un fascino totale. Il luogo stesso, il luogo e il fatto stesso che sia l'unico posto rimasto al mondo in cui si faccia buio e silenzio, io continuo a ripeterlo, è l'unico posto della nostra vita in cui c'è buio e silenzio, almeno per un attimo, almeno per un po', in cui siamo disposti a concedere silenzio, a spegnere il telefonino tutti e concentrarci e condividere tutti un momento fisico, vero, non virtuale, non televisivo e nemmeno su un monitor di un computer, ma lì, in carne ed ossa. Per me tutto questo è un sintomo vitale, ecco, è la presenza in sala di qualcuno, non importa se siano folle o poche decine di persone, è già un miracolo per me di questi tempi. Mi sono seduto dalla parte del torto perché ogni altro posto era occupato. Guardavo chi spreme la vita, ridere forte di ogni mia ferita, mentre ascoltavo gli argomenti peggiori, difesi sempre dai migliori avvocati. Pensavo senza darmi consolazione che non si è mai del tutto spacciati, però si vuole la grande mistificazione. citazione di Céline per il titolo dello spettacolo, un'altra citazione invece per il titolo del tuo album, un manifesto programmatico? Non lo so, io non sono ideologico, non farei mai il programma del partito Giulio Casale. Certo è che le letture, e spero le buone letture, mi hanno segnato profondamente, per cui quasi inconsapevolmente mi ritornano fuori spesso. Cosa significa per te essere dalla parte del torto? La speranza è quella di essere autentici. Se appunto essere autentici di questi tempi coincide con l'essere quasi esclusi dai grandi mezzi di comunicazione, per esempio, di cui qui ovviamente c'è un'eccezione già, e come tale la celebro, ma dico, se questo, no? Se l'essere autentici significa non poter accedere alle vere grandi ribalte, è un prezzo che pago volentieri, perché in realtà per me non è un prezzo, cioè non ho scelta, ed è per questo che dico sono dalla parte del torto, perché non è che lo scelgo, mi ci ritrovo, spesso mi ci ritrovo. Poi il fatto che ci sia qualcuno che canti le mie canzoni, che venga a vedermi a teatro, in realtà qualche speranza me la dà, ecco. Apritemi, apritemi, non ho mai smesso di bussare. Apritemi, apritemi, non ho più voce per chiamare. Apritemi. Tu hai detto non è un vero concept album, ma tutto sommato in fondo potrebbe anche esserlo. Perché? Beh, perché io sento che c'è un percorso nella scaletta stessa, cioè per come ho organizzato, no, la sequenza delle canzoni, sento che è un percorso. Non a caso si chiude con una versione differente della stessa canzone che apre il disco, quindi proprio a chiudere un cerchio, anche se lo riapre, secondo me. E poi perché effettivamente, e con lo spettacolo sarà molto più chiaro, è un volo di ricognizione sopra la società contemporanea, perlomeno quello che riesco a fare io, quel poco che riesco a vedere io, ma quello che riesco a capire mi spaventa a sufficienza da non poterne tacere. Ecco, è questo il punto. Per cui dalla parte del torto diventa per me 12 tappe di, se vuoi la domanda è, a cosa è ridotto l'uomo occidentale oggi e soprattutto il maschio occidentale. Perché le donne hanno, nonostante tutto, nonostante siano vittime, molto vittime di questo sistema che si chiama show business, però nel loro intimo conservano una salute, una sanità possibile perlomeno, che sono molto più in grado dei maschi di percepire come vita vera, come vita autentica appunto, e non come messa in scena. Ecco, il teatro è fantastico perché è una messa in scena ed è uno dei pochi momenti che assomiglia alla verità, quando è fatto bene, di contro una vita che dovrebbe essere vera e sembra purtroppo solo una messa in scena, ecco. Ed è tutto per il 140 caratteri di questa settimana. Continuate a seguirci ogni giorno attraverso il mio Twitter @MartaCagnola. L'appuntamento in radio è per domenica prossima.